9 in punto, la versione di Oscar. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Ragazzo triste come me. Buongiorno cari ascoltatori, abbiamo iniziato con un po' di musica, abbiamo iniziato in realtà con Obama all'inizio col grande Yes We Can, che ha dato il segno alla sua elezione, prima che alla sua elezione alla mobilitazione di milioni e milioni di americani, soprattutto tantissimi giovani che per la prima volta tornavano a vedere nei democratici e in questo candidato democratico un simbolo di svolta rispetto agli anni dei Bush, dell'allinearsi su posizioni centrali di una coalizione che per e alcuni tantissimi anni, anzi in congresso, aveva portato il congresso sulle posizioni dei repubblicani prima ancora quindi di portare poi i presidenti repubblicani alla Casa Bianca. Eppure questo Yes We Can, a distanza di un anno dall'insediamento dell'amministrazione che il 20 di gennaio del 2009 entrava nei suoi pieni poteri dopo le elezioni del novembre del 2008, ebbene questo sogno intaccato. È un po' esagerato ovviamente dire che si è infranto. I giornali oggi mondiali, se li sfogliate, sembra quasi che il presidente degli Stati Uniti sia a un millimetro dal perdere il suo mandato. L'informazione esagera sempre un po', ma una cosa è certa. Le elezioni nel seggio senatoriale che apparteneva a Ted Kennedy a Boston e che hanno visto la vittoria per la prima volta dall'inizio degli anni 70 di un candidato repubblicano, Scott Brown, un repubblicano moderato, pro-choice su temi di aborto, un bellissimo uomo, ma insomma che ha portato un'inversione di segno in una roccaforte democratica, ha soprattutto un significato profondo nel congresso americano che in questi ultimi mesi, lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, ha visto la riforma sanitaria fortissimamente voluta dal presidente Obama. Era importante al Senato difendere la soglia dei 60 seggi sui 100 nelle mani dei democratici, perché il numero 60 è un numero magico, è quello che impedisce all'opposizione di praticare filibustering, cioè tecniche dilatorie, e poiché il seggio che faceva la differenza era esattamente quello tradizionalmente appartenuto a Ted Kennedy e ai democratici, perdere esattamente quel seggio significa innanzitutto che il progetto di legge sul quale l'amministrazione ha più incardinato rispetto a tutti gli altri il suo emblema, la sua grande carica riformista, la svolta rispetto a 40 e oltre milioni di americani che siamo abituati da sempre a identificare come uno dei grandi punti deboli sociali di quel paese, quelli sprovvisti di una qualunque assicurazione sanitaria privata perché non hanno i soldi per pagarsela, ebbene quel progetto di legge, proprio quello, oggi tutti i giornali del mondo si chiedono se non sia finito, e a dire la verità si chiedono tante altre cose. A un anno dall'insediamento le critiche prevalgono sugli entusiasmi. Ora ovviamente è ovvio che il Wall Street Journal sia alla testa delle critiche e oggi il titolo sprezzante è che Obama feel stinks of defeat, cioè sente puzza di sconfitta alle elezioni del midterm che sono nel prossimo novembre. Però in definitiva le critiche prevalgono dovunque. Richiamo, prima di presentare i nostri osservatori, alcuni dei punti di fondo che più vedono convergere le analisi. Nell'interpretazione del fenomeno elettorale, sicuramente a fine anno il presidente Obama è tra i presidenti del Novecento quello che si trova con un 50% scarso di gradimento, ha perso moltissimi punti con uno dei più bassi gradimenti, anzi il più basso dopo il primo anno che era in carica. domanda, gli elettori centristi indipendenti, che sono molto importanti, ieri secondo il New York Times si sono dichiarati indipendenti quasi il 39% degli elettori americani, si stanno riallineando verso i repubblicani, eppure i repubblicani erano in crisi di leadership. Altra considerazione, oltre a una sanità, un disegno di legge sanitario che a questi americani indipendenti centristi sembra troppo di sinistra, per così dire, è davvero stato efficace il suo pacchetto di interventi nell'economia, oppure la disoccupazione a doppia cifra anch'essa spinge gli americani a disilludersi? Conta anche un po' la politica estera? Sappiamo che nella mia esperienza non conta moltissimo le elezioni americane, però certo anche nella politica estera i commenti sono ispirati più a una disillusione nei rapporti con l'Europa, nella mancata soluzione con interventi energici nel Medio Oriente, nei nodi ancora aperti come quelli dell'Iran, insomma. Il ragazzo è triste, come diceva la canzone di Patti Bravo. Senza esagerare, dico io, perché l'informazione in questo deve aiutarci e aiutarvi a capire e non farvi credere che il presidente Obama è finito. È ben lungi dall'aver esaurito la sua carica, questo è il mio giudizio politico, ma sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti, cosa ne pensate voi, chiamate all'800 24 00 24. Allora iniziamo con Sergio Romano, ex ambasciatore, strepitoso scrittore e interprete dei libri di storia e politica internazionale, scrive sul Corriere della Sera. Buongiorno ambasciatore, grazie di aver citato i prossimi 10 minuti del suo tempo. Qual è la sua opinione di questa sconfitta di ieri e dell'un bilancio così dipinto amaramente dalla stampa del primo anno di Obama? Io ho l'impressione che occorra partire dalla constatazione che Obama non ha la maggioranza del paese. Certo, ha vinto le elezioni presidenziali, ma le ha vinte sulla base di un fenomeno che gli ha consentito di raccogliere voti in una parte della società americana che ha una influenza decisamente minore rispetto ad altre componenti della società, sui mezzi di informazione, più generalmente sul Congresso, su Washington. In altre parole, Obama non è maggioritario, non lo è mai stato. È riuscito a portare al voto dei giovani che non avevano mai votato, componenti di gruppi etnici che non avevano mai votato, lo ha fatto in modo straordinariamente efficace grazie a un uso di internet molto, molto innovativo, ma in realtà alcune componenti fondamentali della società americana non lo volevano. E naturalmente adesso sono molto più in grado di quanto non sia quella maggioranza senza influenza che lo ha portato al potere di esprimere le sue riserve e le sue obiezioni. Penso per esempio al grande establishment politico-militare che naturalmente ha visto con grande diffidenza alcune misure di Obama, come la minacciata chiusura del campo di Guantanamo, come il rinuncio alle basi antimissilistiche in Polonia e nella Repubblica Ceca. E quello è un gruppo che riesce a farsi sentire, come soprattutto a Washington. Poi non bisogna dimenticare la lobby filo-israeliana, che lo aveva considerato sin dall'inizio con grande diffidenza. Poi naturalmente lui stesso, avendo fatto molte promesse, non è riuscito a mantenerle se non in piccola parte. Ha avuto anche, devo dire, parecchi colpi di sfortuna, nel senso che la faccenda iraniana non stava andando poi così male. Il negoziato era arrivato a un punto in cui sembrava persino di intravedere una soluzione possibile. Poi ci sono state le elezioni e con le elezioni una crisi del regime iraniano, ed è chiaro che in una crisi del regime finiscono, soprattutto in queste fasi, per prevalere quei gruppi che utilizzano il dissenso con gli Stati Uniti come un fenomeno aggregante, come un fenomeno di unione nazionale, quindi praticamente la strada iraniana gli si è completamente bloccata. Insomma, Obama sta anche pagando il prezzo di una vittoria che è stata inefficace dal punto di vista strettamente elettorale, indubbio, voglio dire, la legittimità c'era, ma dal punto di vista del peso relativo dei gruppi all'interno della società americana, quella vittoria è stata modesta. Non dimentichi tra l'altro che la lobby degli assicuratori, la lobby dei banchieri, la lobby dei medici gli è fondamentalmente contraria, quella dei banchieri perché vuole tassare i bonus, quella degli assicuratori e dei medici perché la riforma sanitaria comunque vada li priverà di alcuni margini di profitto e di alcuni margini di prestigio, di autorità. Insomma, per una serie di ragioni Obama è veramente in difficoltà, ma ripeto, non lo capiremmo se non tornassimo a questa constatazione iniziale che la vittoria era bella e grande, ma inefficace. Quanto all'America media, diciamo, perché lei giustamente ha attirato l'attenzione su una bella lista di lobby che hanno una potenza economica, finanziaria, politica tradizionalmente esplicita e anzi maggiore di quanto non sia già evidente ed esplicita negli Stati Uniti, nella sua politica, nella sua storia. Al di là di quello, l'impressione dell'americano medio, di cui lei richiama il fatto che probabilmente Obama lì non è mai stato maggioritario, ma lo spostamento che si vede nei sondaggi, a suo giudizio, da che cosa dipende soprattutto come tema politico? Se dovessi dire la verità, la mia impressione sarebbe anche un'impressione probabilmente ingiusta, direi dal colore della pelle. Non c'è niente da fare, il pregiudizio esiste, continua ad esistere, non esiste per carità nel modo come dire, bellicoso di cui l'America è stata in qualche modo espressione nel passato, no, l'America ha fatto progressi straordinari, l'inserimento dei neri nella società americana è stato per certi aspetti prodigioso, ma il pregiudizio continua ad esistere ed è abbastanza interessante perché hanno fatto una ricerca sul colore, cioè quanto il colore pesa nel giudizio degli Stati Uniti. Obama è stato favorito dal fatto che era, come avrebbe detto Berlusconi, con un'involontaria, come dire, affermazione vera, involontaria perché immagino che pensasse ad altro, Obama era semplicemente abbronzato. E questo lo ha enormemente favorito in quella parte della società in che qualche modo pesa il colore, perché sono state fatte delle indagini di carattere sociale ed è stato per esempio confezionato un messaggio pubblicitario che presentava una famiglia di neri molto scuri come simbolo del candidato Obama alla Casa Bianca. Si è constatato che quel manifesto immediatamente creava nei suoi confronti, nei confronti di Obama, un pregiudizio maggiore di quanto non creasse l'immagine di una famiglia americana leggermente colorata, tanto per intenderci, come per l'appunto il caso di Obama. In altre parole, il pregiudizio esiste. E ne abbiamo avuto anche prove recenti, voglio dire, l'infortunio del senatore democratico che riferendosi al presidente diceva ma sì, in definitiva poi è un nero che sa evitare di parlare come un negro, conferma che anche a livello di battuta, ma questo tema è sempre molto presente. Io sono molto d'accordo anche con questo aspetto particolare, la rottura c'è stata, ma quando intervengono le rotture ci sono delle reazioni che comunque testimoniano che proprio la necessità di queste rotture corrispondono ad elementi profondi di frattura di un paese, e quello etnico-razziale che si dica è ancora molto forte. Lo ringrazio l'ambasciatore Romano, è un punto di vista fortemente critico come sapete, ho scelto apposta di iniziare con l'ambasciatore Romano perché secondo me ci aiuta a capire con immagini non oleografiche la complessità degli interessi che determinano, sono molti, molto forti nel dare l'indirizzo prevalente alla politica americana. Cioè non abbiamo volutamente cominciato con un filo americano, per così dire. L'ambasciatore Romano, nelle diverse questioni mondiali, quando si tratta di esprimere critiche, si tratta dello scacchiere medio orientale o degli equilibri di potenza nei confronti delle posizioni americane, lo fa, come sa bene chi lo legge da anni. E adesso spostiamoci invece da un altro osservatore e un altro punto di vista da approfondire. Abbiamo con noi Andrea Romano, che è il direttore di Italia Futura, insegna storia contemporanea a Tor Vergata, scrive per Il Sole 24 Ore. Buongiorno Andrea Romano. Buongiorno. Ecco, la domanda che avrei invece per lei è l'approfondimento di un filone che riguarda più la politica dalla parte di Obama e del Partito Democratico e dei liberal americani, che sembravano appunto in qualche misura, dice Romano Sergio, senza aver poi davvero mai sfondato nel centro dell'elettorato americano, però insomma un ciclo sembrava finito ed era il lungo ciclo in cui il sentimento profondo degli americani, grazie a Karl Rove, alla sua strategia che aveva saputo sfondare negli stati democratici sostituendoli con repubblicani con repubblicani anche poi centristi, moderati, non solo dei duri e puri interventisti in politica estera e antiabortisti. C'era una strategia repubblicana che per molti anni aveva dato la maggioranza in congresso ai repubblicani, proprio perché aveva imitato e superato i democratici nella capacità di mettere insieme interessi diversi. Tutto quello sembrava però finito. Se uno va a vedere a distanza ancora di un anno la leadership del Partito Repubblicano, scopre che al di là di Sarah Palin e di aspetti un po' così, ma insomma la leadership repubblicana non c'è ancora politicamente. Però si è visto negli ultimi mesi che dall'America profonda nasceva un movimento, un grassroots dalle radici, come avviene in paesi che poi vanno poco a votare ma sono fortissimamente capaci di mobilitarsi per temi politici. E c'è questo movimento fortemente conservatore, antitasse, il Boston Tea Party, che ha riempito Washington mesi fa di centinaia di migliaia di manifestanti contro Obama, ed è sembrato dire: voi avete, cari democratici, non siete oggi capaci di mobilitarvi più come noi. Allora, dal punto di vista liberal della politica americana, e di questo poi che cosa vuol dire anche nella comunità occidentale, è così: abbiamo sopravvalutato la capacità dei democratici e dei liberal americani di far finire la lunga epoca repubblicana, conservatrice, interventista in politica estera, naturalmente antistatalista, oppure invece è semplicemente la reazione alla traduzione e in disegni di legge concrete delle idee per cui poi c'è più Stato di fronte alla crisi, c'è bisogno di una sanità in cui c'è più pubblico? Dal suo punto di vista come stanno le cose? Ma dal mio punto di vista credo che i democratici abbiano appena iniziato a scalfire quel blocco che lei descriveva, secondo me giustamente, come un blocco repubblicano capace di scavare nel profondo dell'America popolare. In questo senso io non sono d'accordo con l'ambasciatore romano che mi ha preceduto, nel senso, la sua opinione secondo cui Obama sarebbe stato sconfitto dalle lobby, almeno in questo caso. Al contrario, mi pare che Obama, almeno nel Massachusetts, sia stato sconfitto dal popolo. Il senatore Brown, che ha vinto, potremmo dire con una battuta, ha quasi scavalcato a sinistra Obama, non tanto nei contenuti politici, ma quanto nel modo di proporsi al suo elettorato. Se leggiamo le cronache su come Brown ha condotto la sua campagna elettorale, leggiamo di un personaggio conosciuto che ha preso il pick up, ha girato col furgone nel suo collegio elettorale, con toni e accenti molto populisti. Insomma, è uno che ha bene appreso la lezione di Obama, ma non solo la lezione di Obama, ma la lezione dei populisti democratici, è un termine che uso in senso positivo, che hanno, come dire, rivoluzionato la politica americana. Ma pensiamo anche a Clinton fu un grande populista democratico. Allora il punto è non tanto che Obama sia stato sconfitto dalle lobby, ma Obama non riesce ancora adesso a, come dire, a mantenere non tanto le promesse di rivoluzione politica, ma a trasformare quella narrativa populista democratica che lo ha portato alla Casa Bianca in una narrativa populista democratica però legata ad un potere reale come quello della presidenza. Poi la politica americana sappiamo che si aspetta moltissimo dai leader che la guidano. Il punto di Obama mi sembra essere quella di una leggerezza nella sua conduzione della partita di governo. Paradossalmente non è stato abbastanza tosto, come titola l'Economist di questa settimana: è tempo di diventare tough, cioè diventare, insomma, duri sulle vere partite politiche. Questa mi pare la sua difficoltà principale. Detto questo, poniamo anche il fenomeno in prospettiva storica. Insomma, le notizie sulla morte politica di Obama, per fare una facile battuta, mi sembrano un po' premature. Questo sono d'accordo, cioè ma è sicuro. È appena iniziata la sua stagione di governo. D'altra parte sappiamo che altre memorabili presidenze americane non iniziarono all'insegna dei fuochi di artificio. Pensiamo allo stesso Clinton, che un anno dopo la sua vittoria del 92 era dato per spacciato, o pensiamo anche a Kennedy. Insomma, presidenti che adesso noi consideriamo imbattibili cominciarono un po' col piede sbagliato. Dopodiché Obama, insomma, il problema di Obama mi sembra essere quello di un partito che fatica in qualche modo a sostenerlo, anche perché quella che lui ha fatto è effettivamente dentro il suo partito una rivoluzione all'insegna, ripeto, del populismo democratico. Naturalmente i repubblicani non vanno sottovalutati, i repubblicani non vinsero, come dicevano alcune analisi del tutto sbagliate, per brogli elettorali o perché si imposero con la violenza, vinsero, hanno guidato una lunga stagione di governo negli Stati Uniti perché seppero mettersi in sintonia con le corde più profonde dell'America popolare. La partita non si gioca tra le lobby, ma si gioca dentro il popolo americano, e qui Obama e il Partito Democratico devono, secondo me, riconnettersi a quei filoni di populismo democratico che lo hanno portato alla Casa Bianca, ma che devono ancora sostenerlo nel suo mandato di governo. Ecco, elemento su cui riflettere mentre ora vanno i messaggi pubblicitari e poi riprendiamo. Negli Stati Uniti la parola populismo, sono molto d'accordo con Andrea Romano, ha un significato, ha una traduzione concreta e ha conseguenze politiche in entrambi i campi che sono molto diverse da come noi siamo abituati a usare questa parola e a vederne gli effetti nella politica italiana. All'indomani della vittoria repubblicana di Scott Brown nel seggio di Ted Kennedy, il Senato che fa perdere la possibilità, insomma, di difendere il progetto di legge sulla sanità, a cui Obama ha legato una parte fondamentale della sua presidenza, stiamo esaminando con i nostri ospiti quali sono le conseguenze in America in vista delle elezioni del midterm del prossimo novembre, quale impatto ha questa cosa nel mondo. Qualche numero, io ho qui sotto mano il sondaggio di la prima settimana di gennaio fatto per NBC sul presidente e la sua politica negli Stati Uniti. L'approvazione che ancora fino a maggio del 2009 nei confronti di Obama era superiore al 60%, scesa al 48% in questo sondaggio. Sul tema clou, cioè sulla riforma sanitaria, il tasso di approvazione è sceso al 38% rispetto a una disapprovazione esplicita del 55%. Dopodiché, se andiamo a vedere quali sono le priorità espresse invece esplicitamente dagli elettori interpellati nel sondaggio, la questione che più preoccupa gli americani è la creazione di lavoro e la crescita economica, al 38%, le questioni collegate al terrorismo e alla sicurezza, dopo l'evidente buco nelle mani della sicurezza americana legato al caso di Mutallab, cioè colui che stava quasi riuscendo a far esplodere un aereo Delta sui voli di Chicago, malgrado il suo nome fosse stato segnalato agli apparati di sicurezza americani dallo stesso padre diplomatico internazionale. Il terrorismo e la sicurezza, dicevo, proprio per questo sono balzati di nuovo al secondo posto con un 17% di preoccupazione tra gli americani, quindi impressione che non si faccia abbastanza. Il deficit, che tanto preoccupa noi economisti, perché ricordo tutti che gli Stati Uniti per la crisi sono avviate entro pochi anni ad arrivare dal 41% del deficit sul prodotto americano, sarà quasi il 100%, oppure il deficit preoccupa solo il 13% degli americani, alla pari con la salute invece, che è evidentemente il tema caldo su cui evidentemente si è rotto qualche cosa nei confronti dell'opinione pubblica. Tanto è vero che richieste di una risposta esplicita nel sondaggio NBC sul giudizio intorno alla riforma sanitaria, la percentuale di negativi negli elettori americani dal fine giugno ha iniziato a prevalere su quella dei invece dei sostenitori espliciti, e fino a ottobre i contrari erano intorno al 42%, per poi schizzare al 47-48% a dicembre, ed è quella la percentuale su cui si è arrivati fino al voto al seggio senatoriale in Massachusetts, mentre invece i favorevoli sulla proposta di riforma sanitaria, che avevano toccato un vertice nel settembre, ma sempre inferiore a quello dei contrari, ma nel settembre arrivando a un 39%, è scesa fino a un 32% secondo questo sondaggio di NBC. Vediamo con Guido Molteddo, capo della relazione esteri di Europa, ha scritto il libro Barack Obama, la rockstar della politica americana. Guido Molteddo, dal tuo punto di vista, quello che conta di più in questo processo di indebolimento di Obama è che la causa liberal può, dopo questa sonora botta, avviare una riflessione e riprendere un suo rapporto con l'America profonda di cui ci parlava Andrea Romano, oppure sei più pessimista? Il problema che ha avuto Barack Obama e il suo partito nel Massachusetts è prevalentemente con la classe lavoratrice bianca, secondo alcune ricerche che sono state fatte a caldo in questi giorni, prima e dopo il voto. Ed è la stessa white working class che, quando ci furono le primarie, non dobbiamo dimenticare che Obama perse in Massachusetts su Hillary Clinton. Hillary Clinton conquistò esattamente quei sobborghi e quei quartieri della classe lavoratrice bianca che questa volta hanno votato appunto per il candidato repubblicano. Questo è un punto importante, perché Obama ha conservato il blocco elettorale, cioè Obama, la candidata democratica in questo caso, che la Oakley nel Massachusetts, ha conservato grosso modo il blocco elettorale che su cui ha fondato Barack Obama la sua vittoria elettorale nel 2008, cioè gli immigranti, i giovani, quelli più colpiti dalla crisi e i liberal ovviamente. Ecco, lì è rimasta abbastanza forte l'insediamento, mentre si crea di nuovo un problema con la classe lavoratrice bianca e con i pensionati, con i senior, con i cittadini anziani. Questo è un problema molto serio anche per il prosieguo della sua attività presidenziale, perché è ovvio che la crisi economica che supera, in cui c'è un dato dell'inflazione che supera il 10%, solo nel mese di dicembre sono andati perduti 80.000 posti di lavoro e nell'arco degli ultimi 2 anni 7 milioni di posti di lavoro, ed è tutto evidente che sarà questo poi il punto critico con cui avrà a che fare, ed è un punto che è particolarmente a cuore appunto a questa categoria di americani, ai lavoratori, e quindi c'è un problema serio ora dinanzi, perché lui sarà il presidente, la maggioranza democratica saranno occupati con la riforma sanitaria, che è sì un punto estremamente cruciale nell'agenda del presidente, ma a questo punto assume un rilievo secondario rispetto all'urgenza di porre mano alla job creation, alla creazione di nuovi posti di lavoro, e qui la vedo molto difficile per il presidente. Quello che secondo me è interessante notare in questo momento è se Barack Obama cambierà il suo atteggiamento rispetto a quello tenuto nel primo anno della presidenza. Barack Obama ha tenuto fede all'idea di essere un presidente del dialogo, dell'ascolto, della ricerca costante di un accordo bipartisan anche con l'opposizione. Non ha mai attaccato il suo predecessore, anzi ultimamente l'ha anche nominato come, insieme a Bill Clinton, come rappresentante ad Haiti. Ecco, io penso, anche dalla dichiarazione che ha fatto la scorsa notte Barack Obama, che su questo lui cambierà tono, cioè prenderà di petto la questione dell'economia e della crisi economica, gettando la colpa sulla precedente amministrazione. Questo io penso che rientrerà in campagna elettorale adesso. Lui ha cessato nel primo anno la campagna elettorale, diversamente da quello che fece Ronald Reagan quando fu eletto negli anni Ottanta, in cui trascorse i primi 2 anni a parlar male di Jimmy Carter e gettare la croce su Jimmy Carter della crisi economica che si ritrovò a dover gestire. Allora, se capisco bene, Guido Multedo dice vediamo quale sarà la reazione di un presidente che è molto sensibile, la sua forza è stata quella di interpretare un moto profondo degli americani a questi messaggi che gli esprimono gli elettori. Certo, se si tratta di fare questo però, allora probabilmente significa far cambiare segno a molte degli interventi più significativi su cui i democratici si sono giocati questo consenso con gli americani, mentre invece se ha ragione l'Economist che dice è venuto il tempo di essere più tough, più tosti, bisognerebbe fare il contrario, cioè ci ha detto Andrea Romano siamo solo all'inizio di una rivoluzione di attuazione davvero di quella svolta. Allora l'opinione su questo di un punto di vista marcatamente diverso, un punto di vista in cui io ovviamente mi sento più a casa, perché io tifo per i Boston Tea Party. Io penso che gli americani, quando vedono un debito pubblico e le tasse che salgono, inevitabilmente mettono mano, non la pistola, mettono mano al portafoglio e se lo tengono stretto, perché diffidano sanamente, vorrei che fosse un po' così anche in Italia, ma invece no, diffidano sanamente dei politici di qualunque colore che gli vogliono levare i denari dalle tasche, e mi sembra un sano istinto. Ecco, siccome dicevo siamo collegati adesso con Ted Lutwak, politologo, saggista, leggete il suo bellissimo libro sulla strategia dell'impero bizantino che ha fatto seguito a quello sulla strategia dell'impero romano, è collegato con noi da Dublino. Buongiorno Ted Lutwak, come vedi tu invece il senso il profondo di questa sconfitta nel seggio di Ted Kennedy? Siamo a una svolta, il rapporto con l'America profonda si è rotto perché troppo a sinistra, oppure sarà ancora più così la presidenza e non vuol dire niente questa elezione avvenuta 2 giorni fa? Beh, guarda, la prima cosa è di riconoscere che quello che è successo in Massachusetts non è affatto locale a Massachusetts, perché tu hai citato il sondaggio che l'approvazione per Obama è scesa drasticamente a 38%. Avresti potuto aggiungere che il più basso livello di approvazione di un presidente dopo un anno da quando queste cose sono registrate, quindi molto meno popolare di Nixon o Ford e così via, e peggiori o meno popolare. Questo è dovuto, credo decisamente, i dati lo confermano, precisamente alla cosa a cui l'elettore risponde nel positivo solo al 13%, cioè il deficit. Tu vai da una persona e gli dici, ah, il deficit federale, eccetera. Questo è un termine tecnico per lui. Federale, statale, della contea, non sa, eccetera. Quello che ha un senso chiarissimo, che entrando in questa situazione finanziaria molto difficile, molto pericolosa per il futuro dell'America, le priorità dell'amministrazione Obama era di spendere soldi per mandare raddoppiare le truppe in Afghanistan, cioè ogni costa 35 miliardi di dollari, perché un soldato mediamente, come sai, costa $1 milione all'anno con tutti i suoi costi, eccetera. E poi la grande priorità è di spendere di più per la sanità, cioè di dare l'accesso alla sanità agli americani che non hanno accesso, senza però riformare il cuore della sanità. La nostra sanità già costa 16% del prodotto del GDP, di tutto, che è molto di più che in Italia o Giappone o altri paesi così, che dove la gente vive tranquillamente di più, per il fatto che il nostro sistema è un sistema di fee for service, cioè tu vai dal dottore e lui ti dice fai questo, fai quello, e ogni cosa che dici di sì ti costa soldi, quindi i dottori guardano i pazienti come se sarebbero dei bancomat. Questo sistema lui non ha voluto toccarlo perché i suoi consiglieri politici gli hanno detto che è troppo difficile, quindi ha detto lasciamo il sistema dispendioso, costosissimo, però lasciamo altri americani accedere a questo, cioè aumentiamo a spendere in Afghanistan, aumentiamo a spendere questo. Allo stesso tempo la EPA, l'Agenzia dell'Ambientale, ha subito emesso ordini, una settimana dopo l'inaugurazione, a fermare pozzi petroliferi che hanno fatto regole nuove per chiudere queste attività, quella fabbrica. Quindi, mentre il senso in America è ragazzi, qui bisogna stare attenti, diventiamo poveri, a Washington i democratici a lungo fuori del potere arrivano con tutti questi programmi che sono tutti programmi di spesa, non di risparmio. Questo ha profondamente disturbato l'opinione pubblica e i bianchi che hanno votato contro Obama avevano votato per Obama nelle elezioni, erano bianchi allora, sono ancora bianchi adesso, il loro colore non è cambiato, ma loro hanno cambiato di voto e non conta, ripeto, perché il sondaggio nazionale di tutti i colori, in ogni regione, non solo Massachusetts, è 38% di approvazione e 34% contro. E allora, se Obama reagisce cominciando a attaccare Bush, è la fine dell'amministrazione Obama. Lui può tranquillamente concedere, andare a casa e mettere Biden nella Casa Bianca. In questo momento attaccare Bush è assurdo, puoi attaccarlo la settimana dopo, non dopo un anno che hai tu l'elmo. Questo è finito. Allora, ma ci dice sì. Ted Lutwak che è una tendenza di lungo periodo, quindi di qui al midterm la vedremo avanzare ancora di più, perché mi pare molto difficile in realtà invertire provvedimenti o una politica orientata alla spesa in maniera molto significativa. Significherebbe smentire una delle basi stesse di questa presidenza. Stiamo parlando del compleanno triste, del primo compleanno triste dell'amministrazione Obama rispetto al clamoroso segno di speranza che segnò il suo insediamento un anno fa. Sentiamo l'opinione di alcuni di voi, innanzitutto Fabio da Roma. Prego Fabio, ci dica. Buongiorno dottor Giannino. Senta, la mia opinione è che da parte dell'americano medio, cioè dell'elettorato, si fosse creata una aspettativa eccessiva nelle possibilità di cambiamento che potesse rappresentare la figura di Obama. E questa aspettativa, secondo me, si è creata politica internazionale, di mass media internazionale, cioè sembrava che avesse un po' la bacchetta magica. Adesso probabilmente gli americani stanno iniziando a prendere coscienza di quanto gravi siano i problemi e non possono essere risolti così di d'amblè. E poi soprattutto anche un'altra considerazione, forse iniziano anche a mettere questo in relazione con la perdita di peso internazionale da parte degli Stati Uniti, con il fallimento ad esempio di Copenaghen, oppure con Tim Geithner che è stato deriso quando a Pechino stava perorando la causa del dollaro. Insomma, adesso si inizia evidentemente a rendersi conto che le cose sono molto più gravi di quanto apparissero un anno e mezzo fa. Grazie, grazie a Fabio. Antonio dalla provincia di Novara, prego D'Antonio. Buongiorno, saluto tutti innanzitutto. Senta, io volevo dire, mi sembra di capire che quelli che Obama non va bene, sono tutte le varie grosse lobby d'America, cioè vediamo le lobby delle armi, le lobby, chiamiamole pure lobby della finanza, praticamente si trova un po' da solo contro tutti, secondo me. Quindi insomma la posizione di Antonio è quella un po' di Sergio Romano, che ha iniziato facendoci l'elenco delle lobby contro le quali è andato male, e Sergio Romano dice sempre la lobby politico-militare, soprattutto i militari sono contrari perché non volevano, erano quei repubblicani. Ma io sono un po' scettico, queste lobby contano, però infatti ho voluto apposta cominciare con l'opinione di Sergio Romano per sottoporvela, ecco, lo critico, dico semplicemente che però abbiamo visto c'è anche poi un aspetto aggiuntivo che riguarda il sentimento degli americani medi. Fabrizio da Gela, prego Fabrizio. Sì, buongiorno. Io volevo porre l'accento sulla caduta di consensi che è indubitabile, secondo me. La correlazione con il risultato in Massachusetts è relativa, perché l'elettorato americano e soprattutto quello del New Hampshire, del New England, non è così fedele a un partito quando hai contenuti. Il candidato repubblicano in Massachusetts forse ha scavalcato realmente a sinistra il candidato democratico. Per la perdita dei consensi da parte di Obama, secondo me, è dovuto più a un'azione radicale da parte della presidenza Obama. Le riforme e le azioni che ha intrapreso in vari campi sono davvero radicali per il sistema economico americano. Faccio due esempi. Uno, la riforma sanitaria. Culturalmente è un muro da abbattere ancor prima dei contenuti reali di questa riforma. L'altro aspetto è quello delle lobby. L'azione delle lobby secondo me è significativa, ma non tanto per la mancanza di appoggio storico che di solito i presidenti americani hanno di una parte delle lobby, chi la finanza, chi le armi e l'energia e così via. Però, quanto il fatto, perché su questo poi aggiungo una considerazione, concluda. Sì, cioè, faccio un esempio, le azioni che Obama sta facendo nel settore energetico sono di lungo respiro, sì. Cioè i maggiori investimenti sono decisi nella smart grid, cioè investimenti nella rete. Ecco, però gli ho fatto concludere l'opinione per dire che insomma sì, però andiamoci piano, nel senso che noi assistiamo da 15 anni, questo lo dico da economista, non da giornalista, per esempio per quello che riguarda l'industria finanziaria americana, che ha negli anni alle nostre spalle assunto una quota crescente, schiacciante degli utili del totale delle quotate americane, l'industria finanziaria ha realizzato di fatto nella politica americana quello che si studia come esempio da manuale di cattura del regolatore, nel senso che alla testa di tutti i regolatori finanziari eccetera non trovate da molti anni negli Stati Uniti, nella media più accademici, trovate banchieri di investimento, gente che viene da Goldman, gente che viene da Merrill Lynch, e sono loro che fanno i regolatori. In buona sostanza, in questo c'è stato un consenso bipartisan, democratico e repubblicano, intorno a scelte come l'abolizione del Glass-Steagall Act, cioè tutto quello di cui è figlia la cultura della finanza per la finanza con rendimento annuale a doppia cifra. Allora su questo è insomma che non abbia tifato democratico democratico e quella lobby, mica tanto. Perché in Italia siamo abituati a considerare che quella lobby ti fa repubblicano. Mica è vero, perché guardate che insieme a Obama i cervelli dell'economia, cioè Larry Summers, sono gli stessi discepoli di Rubin, eccetera, eccetera, di quelli che fecero queste scelte con Clinton di fortissima deregolazione. Non è che fossero repubblicani. I repubblicani poi li hanno condivise quando è venuto il loro momento. Però questa lobby, quella finanziaria, altro che se sta coi democratici. Quella energetica di cui parla lei, siccome lì si tratta di investimenti per migliaia e miliardi di dollari, non solo negli Stati Uniti, ma insomma tutto il mondo avanzato, oggi la green economy è diventata quella che fa venire il prurito negli occhi a un fracco di gente che vuole pacchi di denaro pubblico e di incentivi su fotovoltaico e alternativo di tutti i tipi, ma anche in quel caso, attenzione, sono i democratici quelli che promettono negli Stati Uniti di farle queste cose, mica più dei repubblicani, più dei repubblicani. La domanda che io faccio finale, un minuto e mezzo a testa, di nuovo ad Andrea Romano e a Guido Molteddu, è: cosa vi aspettate invece in politica internazionale da un Obama che da una parte deve riflettere su come rispondere a questo messaggio e dall'altra deve... è rimasto Guido Molteddu, mi dicono Andrea Romano è caduta la linea. Guido, cominciamo da te allora. Tu cosa ti aspetti dal punto di vista della politica internazionale per l'Europa, per l'Iran, insomma sugli scacchieri un po' più delicati? Beh, intanto c'è Haiti come banco di prova internazionale, non lo dimentichiamo. A questo proposito vorrei ricordare che i sondaggi sulla sua gestione di Haiti raggiungono l'80% dell'approvazione, il che poi non sono in disaccordo con Lutwak. I sondaggi in questo momento sono sopra il 50% proprio grazie all'azione ad Haiti. È un paradosso, lo so, ma è così. Per quanto riguarda gli scacchieri internazionali, io credo che non ci saranno cambiamenti di rilievo. Penso che continuerà lo stesso tipo di attitudine che ha avuto sia nei confronti dell'Iran, nel Medio Oriente. Ecco, il Medio Oriente diventa di nuovo un punto importante dell'azione. In questi giorni c'è Mitchell che sta di nuovo riprendendo la spola tra i vari paesi del Medio Oriente e anche verso l'Europa. Ma ripeto che è Haiti in questo momento il punto di attenzione, e lì non è un'impresa facile, lì rischia di nuovo anche Obama. E quindi vediamo anche nei prossimi giorni se la situazione migliora, perché altrimenti lì lui ha scommesso molto, anche dal punto di vista finanziario, perché non sarà un'impresa facile tenere lì oltre 10.000 marines e militari e poi impegnarsi per la ricostruzione. Lì è un altro fronte che è aperto e vediamo come va. E questo era tra l'altro un fronte largamente imprevisto che si aggiunge a dei costi terribili della macchina militare americana, stante l'impegno afghano che è diventato ancora più rilevante di quello iracheno. E di sicuro, dopo aver dato questo segnale di fortissima volontà di esercitare un grande ruolo per Haiti, sarà un po' difficile poi fare marcia indietro e dire no. Eppure la polemica politica è dietro l'angolo, come abbiamo già visto all'indomani proprio dei primi interventi da parte francese. Vedremo. Io sono dell'idea, in conclusione, che l'amministrazione dovrà riflettere profondissimamente su tutto il suo programma, e di qui a novembre vedrete che i segnali di indebolimento, secondo me, continueranno a rafforzarsi e a prevalere su quelli di rafforzamento. E quindi la domanda è se il ragazzo triste diventerà definitivamente deluso. Ma domanda aperta. Grazie a regia Paolo Corleone e ai nostri ospiti di oggi. Grazie a Alessandro, Marco Tulli, come sempre. La linea al giornale radio. Appuntamento a domani.